Direi che possiamo intanto iniziare perché le comunicazioni che la biblioteca deve darvi sono sempre un po' lunghe, allora ne approfitto di questi momenti prima di dare la parola ai nostri ospiti di questa sera dicendovi che, allora, aspettate un attimo perché devo organizzarmi con gli occhiali, abbiamo in previsione domani sera la presentazione di una raccolta di poesie intitolata Amaro Destino, sempre alle 17:30 e sempre in questa sala con l'autore Marco Veronese accompagnato da Elio Cirimbelli. Questa presentazione si inserisce in un contesto di presentazioni legate alle dipendenze. Ecco, quindi abbiamo iniziato in gennaio con Alessandra Limetti e questa volta invece sarà con noi Marco Veronese e la sua raccolta di poesie e narrazioni dedicate, intitolate Amaro Destino, domani sera alle 17:30. Abbiamo poi un gruppo di lettura che si riunirà il 6 marzo alle 17:00, questa volta verrà letto e commentato il libro di Carmine Abate, Il cercatore di luce, alle 17, il 6 marzo, presso la biblioteca. Poi abbiamo invece il 5 marzo, martedì alle 17:30, la presentazione del libro con accompagnamento musicale dedicato anche al tema femminile, visto che ci avviciniamo alla festa della donna. Il titolo è Sono io che vi chiamo, è un appuntamento concepito insieme alla Consulta di Appiano. Ci saranno Giampiero Montanti, Jael Berra, Liviana Berardini, la musica con Roberto Catania, che è un tenore, e poi Elisabetta Fusillo al pianoforte. La serata, come vi dicevo, è il 5 marzo alle 17:30, sempre in questa sala. E ancora vi racconto un paio di cose. Dunque, domani mattina alle 10 avremo in biblioteca la presentazione di un progetto nuovo che faremo con Lupa, dei 8 incontri, dedicato alla creazione del podcast, cioè questi, diciamo, brevi contributi sonori e che noi vogliamo dedicare alla memorialistica e a dei personaggi che abbiamo già intervistato come biblioteca, ma che vogliamo riraccontare in una chiave diversa. Il progetto si chiama Podcaster di Comunità, inizierà nelle prossime settimane, ma domani lo presentiamo. Chi avesse piacere e fosse curioso di sapere di che cosa si tratta, l'appuntamento è domani mattina alle 10 in biblioteca. Un'altra cosa che vi ricordo è il premio Claudio Augusta. Se conoscete qualcuno che quest'anno farà una tesi di laurea di interesse locale, mandatelo alla biblioteca perché gli daremo tutte le indicazioni per quello che è il premio previsto per chi consegna il suo lavoro. E infine, pensiamo di attivare anche, abbiamo intenzione di attivare un gruppo di lettura ad alta voce, ovvero ci saranno delle persone che verranno a leggere ad alta voce dei brani tratti da alcuni libri che poi successivamente verranno presentati in biblioteca oppure in queste occasioni. Tutto questo perché abbiamo pensato che a volte è meglio leggere qualche parte di un romanzo e poi incontrare l'autore o l'autrice, cioè può essere anche interessante cambiare questo canone e affidare a degli esperti una lettura, quindi godere la musicalità di un brano senza impegnarsi direttamente nella lettura del romanzo, ma farlo semmai successivamente. Questi incontri ad alta voce sono ancora da programmare, ma sono sicuramente degli incontri che faremo la mattina tra marzo e giugno di quest'anno e poi, se va bene, proseguiremo con questo nostro programma. Tutto questo perché? Perché la biblioteca vuole avvicinare il più possibile le persone alla lettura, ma anche al vivere una biblioteca, ecco, perché la biblioteca è fatta di tante cose, di incontri, di scambi, di ricerche, di materiale anche digitale, di letture, insomma ha tantissimi aspetti che vogliamo far scoprire oppure mettervi a disposizione se già li conoscete. E quindi arriviamo ai nostri ospiti, che ringrazio anche per la pazienza. Ecco, beh, insomma, li conoscete. Allora, Paola Bassetti e Andrea Bonoldi sono qui con noi questa sera nel ciclo che abbiamo iniziato ancora in gennaio, grazie a Leo Andergassen che è qui con noi, dedicate alle pubblicazioni del Castel Tirolo, e questa sera appunto ci parleranno del sito storico, del simbolo, del museo Castel Tirolo e l'offerta culturale in Alto Adige, Sud Tirol, per quanto riguarda l'intervento di Andrea Bonoldi, e invece Castel Tirolo attraverso le vedute storiche, grafiche, disegni, dipinti, per quanto riguarda l'intervento di Paola Bassetti. Vi ringrazio, spero di vedervi poi presto anche in biblioteca. Per avere notizie sulle nostre attività basta iscriversi, e, oppure passare quando avete tempo in via Marconi 2 e vi diamo le cartoline, ecco, in promemoria. Grazie e buona serata. Una cosa, qui ci sono anche dei quaderni che avesse piacere, si possono poi acquistare, ecco. Grazie. Grazie Valeria, stavo pensando di anticipare la pensione per poter partecipare a tutte le iniziative vostre, perché è l'unica soluzione per poterlo fare. Va bene. E, beh, io sono qui oggi un po' come un estraneo, nel senso che non sono né uno storico dell'arte né uno storico medievale, quindi non sono esperto delle cose che vi andrò a raccontare. Però mi sembrava giusto restituire qualcosa dell'esperienza che ho avuto in tanti anni all'interno del Comitato Scientifico di Castel Tirolo, dove ho potuto seguire con ammirazione e con piacere il lavoro che è stato fatto per valorizzare le collezioni e le idee intorno a questo castello. Per cui il mio obiettivo oggi è un po' eccentrico, diciamo, rispetto agli altri incontri che ci sono stati, perché ci sarà una storica dell'arte molto più qualificata di me dopo a raccontarvi qualcosa sulle vedute. Io cerco invece di spiegare qualcosa sul castello in quanto tale, cioè sulla sua storia, sulla sua vicenda e sul peso, sul significato che ha avuto nella cultura tirolese e sul significato che ha oggi il Museo di Castel Tirolo come istituzione culturale, qual è la specificità della sua proposta e quali sono le sue potenzialità. Ecco, nel fare questo mi piace ricordare che le cose che mi piacciono di più in assoluto di Castel Tirolo sono, vabbè, in primo luogo ovviamente il suo direttore e le colleghe del comitato scientifico che sono al primo posto ovviamente, ma poi, ok, poi c'è il portale della cappella, che con la capacità straordinaria che ha il romanico di suscitare emozioni è ogni volta che lo vedo un colpo d'occhio, e naturalmente anche la vista, cioè quando si arriva a Castel Tirolo e si guarda, qui la vista è un po' presa un po' dall'alto, ma non è molto dissimile a quello che si vede dal castello, è una vista straordinaria, una dei panorami più belli in assoluto dell'Alto Adige, si ha il dominio totale della Valle dell'Adige fino al Macaion, fino alla conca di Bolzano, e dall'altra parte c'è l'imbocco della Val Venosta, quindi una posizione assolutamente dominante, risalendo, quando vado verso il Comitato Scientifico di Castel Tirolo, risalendo lungo l'Amebo, Castel Tirolo è una sorta di punto di fuga prospettico, insomma lo si vede, no? in fondo alla vallata, cattura subito l'occhio. E la posizione ovviamente non è una posizione casuale per un castello come questo, è legato alla sua funzione storica e è legato al ruolo che questo castello ha avuto come culla di un sistema politico che ha avuto una storia importante. Perché questa posizione? No? È una posizione dominante, ma è anche una posizione che si trova all'incrocio di vicende storiche significative. È una posizione di confine, innanzitutto, e lo è sempre stata, fin dall'età antica. Merano si trovava qui, vedete, esattamente al confine tra le province romane della Venezia ed Istria e dell'Arezia. Quindi un luogo dove passavano linee di confine che dividevano l'Italia, no, dal resto dell'impero. Ed è anche un luogo di confine, qui facciamo un salto cronologico importante, tra la diocesi di Trento, vedete, qui siamo nel 1295, questa è la diocesi di Trento, non il Principato Viscovile, la diocesi, che vedete arriva esattamente a Merano, ma non comprende Castel Tirolo. Castel Tirolo resta fuori ed è all'interno della diocesi di Coira. Poi qui, dopo l'età romana, passeranno altre linee di confine, ma sempre la conca meranese sarà contesa. Ci saranno i franco-baiuvari che arriveranno da nord, i longobardi che verranno da sud. Quindi è un luogo in cui ci sono ragioni strategiche, insomma, per avere un punto di controllo. Ma non ci sono soltanto i confini che passano, molto importanti sono anche le vie di comunicazione. Le vedete segnate qui, sono le vie che attraversano i grandi passi alpini. Ora, in età romana erano più importanti i passi occidentali, ma almeno dalla spedizione, insomma, di Druso comincia a essere importante anche la via verso il confine germanico dell'impero romano. E dunque si costruiscono, tra l'altro, la Claudia Augusta, il nome della biblioteca, ricordiamolo, che è una via importante, che nel suo tracciato principale, in uno dei due tracciati principali, era quello più importante inizialmente, passava appunto per la conca di Merano e poi attraverso il Resia verso Augsburg. Quindi vie di comunicazione, confini che si tracciano, una zona particolarmente importante dal punto di vista strategico. Qui stringiamo un po' lo zoom e vediamo questi percorsi all'interno della conca di Merano. Vedete appunto qui la valle dell'Adige, Merano, da questa parte la Val Venosta, qui la Val Passichia, e c'era questo percorso che collegava la Val Venosta alla Val Passichia passando attraverso un itinerario a mezza costa che ricomprendeva San Pietro in Quarazze, che è una chiesa che si trova subito prima di Castel Tirolo, e poi scendeva verso Chienes, Rifiano e la Val Passichia. Abbiamo quindi una condizione particolarmente importante dal punto di vista strategico e delle comunicazioni. Una condizione che si riflette poi anche nei ritrovamenti archeologici che sono stati fatti su questa collina, perché prima del castello c'erano insediamenti di altra natura. Ora le attività archeologiche sono ancora incomplete, c'è ancora lavoro per generazioni di archeologi da qui in avanti, e nel prossimo incontro poi Gino Bombonato, con molta più competenza, vi racconterà queste cose. Però ci sono alcuni ritrovamenti interessanti che sono stati fatti, che anticipano in qualche modo la vicenda del castello, e una particolarmente importante è la presenza di una chiesa paleocristiana che si trova nella parte anteriore del castello, che è stata trovata in occasione degli scavi fatti perché bisogna fare un serbatoio per l'acqua per garantire gli interventi antincendio, e scavando nel vigneto davanti al castello è emersa questa struttura, una chiesa paleocristiana realizzata sopra una struttura precedente di età tardo-antica, prima a struttura molto semplice, come vedete questa qui, e poi successivamente costruita con una struttura molto più elaborata, triapsidata, vedete con tre absidi. È una chiesa che ha restituito anche uno straordinario reliquiario, vedete questa pisside d'argento, all'interno della quale c'erano in effetti delle reliquie. Una delle ipotesi, questa pisside risale al V-VI secolo, una delle ipotesi è che queste fossero le reliquie dei tre martiri della Naunia, quindi Sisinio, Martirio ed Alessandro, e questo farebbe ricadere appunto questa chiesa nella sfera di influenza della diocesi di Trento. Poi le vicende, insomma, hanno portato verso Coira, e l'influenza successiva appunto va più in questa direzione. C'è anche un ritrovamento che racconta una storia in questa chiesa, che è conservata e coperta adesso da una struttura ed è visitabile comunque davanti al castello, ed è la storia di Lobecena Albada, probabilmente una giovane fanciulla Albada, quindi vestita di bianco, una giovane fanciulla che faceva parte sicuramente dell'elite locale, che è stata seppellita nella chiesa tra il VII e l'VIII secolo probabilmente, e la cui lapide è stata ritrovata in questa struttura. Quindi si trattava sicuramente di un insediamento che aveva una sua rilevanza. Adesso non sappiamo esattamente, non si sa esattamente cosa ci fosse sopra la chiesa nella zona del castello, se antiche leggende tramandano dell'esistenza di un monastero, probabilmente qualcun altro ipotizza invece la presenza di una struttura di tipo amministrativo militare, ma da questo punto di vista c'è ancora qualcosa da scoprire. Sicuramente l'asse viario e la presenza comunque di questa chiesa, bisogna poi pensare che dall'altra parte subito vicino c'è San Pietro in Quarazze, del quale recentemente poi sono stati anche datati gli stucchi più o meno nello stesso periodo, no? Tra il V e il VI secolo di realizzazione della Chiesa, quindi è un insieme piuttosto complesso e interessante, danno il senso del rilievo che aveva questa realtà. Questa realtà che diventa importante con l'XI secolo, quando comincia la costruzione della struttura in cima alla collina, la struttura che diventerà poi la sede dei conti del Tirolo. Conti del Tirolo, qui si intrecciano le vicende del luogo che si chiama Tirolo, della denominazione del casato che si chiama Tirolo e poi della denominazione che avrà tutta la provincia, tutto il land, che è uno dei protagonisti importanti della storia europea medievale e moderna. Un land che ha un ruolo politico importante perché è un land a cavallo, no? Dello spartiacque alpino, lungo una delle vie di comunicazione più importanti. Da questo punto un parallelo che si può fare per la storia tirolese è con la Savoia. La Savoia ha avuto un ruolo altrettanto importante, anche questo un Passstaat cosiddetto, che costruisce la sua potenza sul controllo dai due versanti delle Alpi di importanti direttrici di comunicazione. E protagonisti di questa storia è una famiglia di probabile discendenza bavarese che comincia a essere attiva in area, a emergere in area tirolese nel XII secolo, e che grazie all'assegnazione che è stata fatta dagli imperatori dei territori ai principi vescovi di Bressanone e Trento, come avvocati dei principi vescovi cominciano ad acquisire un rilievo dal punto di vista politico e militare. Perché avvocati? Perché i principi vescovi avevano bisogno di nobili che svolgessero le funzioni di difesa e di controllo del territorio. Questi nobili ovviamente lo fanno, ma chiaramente parallelamente portano avanti anche i loro interessi, no? E da questo punto di vista la linea dei conti del Tirolo sarà molto coerente nel costruire una intelligente politica fatta di eliminazione delle famiglie avversarie, fatta di politiche matrimoniali. Guerra e matrimoni sono sempre stati abbinati in maniera strategica per costruire il potere, che consentirà poi, a partire da Alberto III in particolare, di avere un controllo su ampie fasce del territorio provinciale. Quindi prima il controllo della Venosta, poi dell'area dell'Adige Bolzanina, anche poi dell'Isarco, e successivamente ci sarà un'ulteriore estensione. Il campione di questa vicenda è Menardo II, che è rappresentato qui, che è tale perché ha consolidato la struttura di potere. Ha anche, siccome poi per le vicende dinastiche arriva anche la contea di Gorizia nelle mani della famiglia, insomma ha veramente un controllo su un'area geografica alpina decisamente vasta. Ma non c'è soltanto questo, lui introduce anche forme amministrative sviluppate. A Casteltirolo c'è un notariato che tiene i conti, che produce documenti, insomma abbiamo una forma tra virgolette moderna di potere, tra l'altro un potere che tende ad essere centralizzato perché sottrae competenze alle famiglie precedenti. Ecco quindi che comincia a costruirsi il moderno Stato tirolese, moderno tra virgolette ovviamente, ma che comincia ad avere una struttura decisamente articolata. Poi le vicende della famiglia, insomma, sono vicende complesse che finiscono per avere una svolta importante nel corso del 300, quando verrà a estinguersi la linea maschile della famiglia e protagonista poi di una svolta importante sarà Margherita Maultaz, che trovate qui, una figura femminile estremamente interessante del 300, una vera e propria protagonista, una donna che ha il coraggio di ripudiare il primo marito, che tra l'altro era familiare dell'imperatore, quindi si troverà poi l'imperatore che le assedia al castello, insomma una vicenda complessa, la Chiesa ovviamente non se ne parla, no? L'aveva scomunicata, poi dopo insomma se ne sposa un altro, riesce a manovrare un po', il figlio riesce a diventare conte del Tirolo ma muore. E allora alla morte del figlio bisogna trovare una soluzione. Alla fine la soluzione che si riesce a trovare è quella del passaggio del Tirolo agli Asburgo. C'è una linea di Asburgo, in qualche modo imparentata per via femminile dall'altra parte, e in questo modo il Tirolo nel 1363 entra a far parte dei possedimenti degli Asburgo e quindi inizia l'appartenenza alla quella che sarà poi la casa regnante austriaca e la casa imperiale. Ecco, Margherita Maultach è questo nomignolo che è stato affibbiato, ma che è frutto della propaganda bavarese ed ecclesiastica, probabilmente, no? Che tende a metterla in cattiva luce, ha avuto però questa funzione importante, qui vedete che è rappresentata appunto con lo stemma dei Wittelsbach bavaresi, quello tirolese e quello della Carinzia. Ecco. Questo è Federico, invece, che è il duca tirolese, il conte del Tirolo e il duca d'Austria, che sposterà la residenza da Castel Tirolo a Innsbruck, e quindi anche lui avrà una funzione molto importante nella storia del castello. Perché la sposta a Innsbruck? Ci sono ragioni di tipo strategico, di tipo territoriale e anche di tipo economico. Tipo strategico perché ovviamente Innsbruck è al centro dei suoi possedimenti, da Hall, che è vicino, si può salire sulle imbarcazioni che attraverso Lin arrivano sul Danubio e poi arrivano fino a Vienna, e quindi si è collegati con il cuore dell'impero, ma nel corso del 400 le miniere intorno a Innsbruck cominciano a essere realmente importanti, realmente produttive. Ecco dunque che ha senso spostare in quella posizione più centrale la sede amministrativa di questa struttura di potere. Però l'abbandono di Castel Tirolo comporterà anche una lenta decadenza del castello, e quello che si nota nel periodo successivo è effettivamente questo, effettivamente una perdita graduale di importanza che si traduce anche in un deterioramento delle strutture del castello stesso. Il nome resta però importante, no? Nel 1141 abbiamo la prima menzione di Tirolo, in questo documento in cui appare un Albertus de Tiroles, che è appunto l'Alberto, il conte Alberto che abbiamo visto prima, che è stato infeudato della Venosta dal principe vescovo di Trento, e nel 1558 anche un documento che parla di un vicus Tiral, questo Tiral che, insomma, noi l'abbiamo fatto tutti a scuola, alla fine l'inferno, no? Dante ce lo siamo fatto tutti, che compare anche nell'inferno dantesco, dove, parlando con Virgilio, che era di Mantova, che parla del lago di Garda, eccetera, alla fine si arriva anche a parlare di questo castello, perché si dice: suso in Italia bella giace un laco a pie dell'Alpe che serra la Magna sovra Tiralli canome Venaco. Allora, l'Alpe che serra la Magna sovra Tiralli, no? È l'arco alpino, ma sovra Tiralli si intende molto probabilmente il castello, no? Castel Tirolo, che quindi compare anche nella Divina Commedia. E Tiralli chiaramente poi sarà ripreso abbondantemente anche nella propaganda nazionalistica, chiaramente negli anni 20 e negli anni 30, e quando entrerà dopo la Prima Guerra Mondiale a far parte del patrimonio dello Stato italiano, il castello si chiamerà Castel Tiralli, no? Per rivendicare questa appartenenza. Allora, Tirol sembra che abbia una radice indogermanica che vuole dire terra sostanzialmente, che passa sia poi nella lingua tedesca attraverso nella lingua retica che nella lingua latina, e quindi lo ritroviamo come una radice comune che indica territorio. Un aspetto interessante, una storia interessante è il fatto che all'interno di Castel Tirolo c'è una cappella molto, molto bella. Vi dicevo la volta scorsa, anche il direttore ha presentato l'altare che è conservato nella cappella stessa, ed era una cappellania, cioè era una curazia che era separata rispetto alla parrocchia locale. Quindi c'era un cappellano che curava la salute delle anime di chi abitava al castello, aveva una sua dotazione economica con delle decime che gli venivano pagate, e mantiene poi a lungo questa cappellania, mantiene a lungo la sua autonomia. C'è un personaggio interessante in questa storia, che è un personaggio che si chiama Matthäus Andergassen, che era cappellano al castello e che successivamente diventa principe vescovo di Bressanone. Ma è un uomo proprio del destino in qualche modo, perché lui è figlio di ministeriali di Castel Tirolo, no? Viene da una famiglia di persone che gravitavano intorno all'amministrazione di Castel Tirolo, e nel 1363 si troverà a cedere agli Asburgo, no, la sua infeudazione per sancire in qualche modo l'appartenenza al nuovo contesto tirolese. Quindi abbiamo un Matteus Andergassen, quindi un Theo Andergassen, che da Casteltirolo va a Bressanone, e queste sono le astuzie della storia ogni tanto, a 700 anni di distanza avremo invece un Leo Andergassen, che è stato direttore del Museo Diocesano di Bressanone, che ha fatto il percorso inverso, con una tappa poi a Bolzano che è andata così così, poi dopo si trasferisce a Casteltirolo. Insomma, la storia gioca così a volte. Ecco, questa poi tra l'altro è la lapide che si trova, funeraria, che si trova nel Duomo di Bressanone, che tu hai studiato anche, no? Hai pubblicato a suo tempo. Allora, qui abbiamo due immagini, questa 1896, vedete sulla sinistra l'immagine del castello, e quella di oggi. Cosa notate? Facciamo il gioco come la settimana enigmistica, nota le differenze. Cos'è la prima cosa? Manca la torre. Questa è la prima cosa che emerge e che si vede. Quello che è un tratto visivo così impattante, no? Che è la presenza della torre, in realtà nella foto del 1896 non c'è. Ma non è che non c'è solo nella foto del 1896, non c'è neanche nel codice Brandis del 1610, cioè in tutte le rappresentazioni grafiche fino adesso conosciute, la torre non compare, o meglio, compare in questo stato qui che vedete, appunto è un mozzicone di torre. Questa è una vicenda un po' abbastanza interessante, no? È stata molto analizzata dal punto di vista anche della storia costruttiva, perché non c'è la torre, se sono cercati i resti eventualmente di un crollo, si sono fatte tante ipotesi. Vi dicevo che il castello nel 1347 è stato assediato dalle forze imperiali, e qualcuno dice poi la torre è stata battuta in occasione di quello. Nel 1300-1301 il castello ha subito un incendio devastante, qualcuno ha ipotizzato anche che ci fosse stato appunto in seguito all'incendio la distruzione della torre, ma in realtà se le ultime analisi vogliono dire che la torre in realtà non è mai stata completata. La torre non è mai stata completata, è stata completata all'inizio del 1900 in occasione del restauro del castello su un modello che è un modello del Liechtenstein, quindi siamo sempre in area alpina in qualche modo, però quello è il modello che è stato preso. Quindi questa è un po' una ricostruzione, ma vedete non è l'unico particolare diverso. Se guardate questa costruzione che è immediatamente davanti alla torre è molto diversa, qui è stata ricostruita, manca tutta questa parte qui, vedete, tra i due edifici. Perché manca quella parte? Perché la posizione del castello è magnifica, ma il terreno sottostante è disastroso, perché è un terreno di sedimenti lasciati dall'ultima glaciazione, che sono fertili, si coltivano bene le vigne, eccetera, ma sono molto poco stabili, e quindi nel tempo ci sono stati dei crolli importanti, tutta una parte appunto della costruzione è crollata giù nella fora dei castagni sottostante. Quindi è stato ricostruito successivamente anche questo camminamento di ronda, vedete, in legno, che è un'aggiunta successiva appunto di inizio Novecento, e anche qui vedete, se notate, il particolare di questo camminamento, di questa scala che sale poi nell'edificio principale, che qui non c'è, che qui è stato aggiunto. Quindi, allora, possiamo inorridire se vogliamo essere dei puristi filologici, ma il purismo filologico ha poco senso. Gli edifici storici sono vissuti e sono reinterpretati da tutte le generazioni, in qualche modo che ci aggiungono qualcosa, che lo adattano ai loro bisogni e ai loro gusti. L'idea di riuscire a ricostruire la purezza originale di un edificio è un'idea abbastanza rischiosa, pericolosa, no? E difficilmente si riesce ad avere un buon risultato. Quello che è importante è sapere come l'evoluzione è stata, ha avuto luogo nel tempo e quali sono stati i risultati. Qui vediamo appunto questa pianta del 1900 che fa vedere qual era lo stato all'epoca, e qui la stessa visione dall'alto del castello adesso. Ecco, la chiesa che vi dicevo si trova in questa posizione qui davanti. Il simbolo. Allora, questa è la storia del castello fatta molto rapidamente, come vedete, ma il simbolo, perché è importante dal punto di vista simbolico? È il centro del potere, no? Il centro del potere di questo territorio. E questa cosa viene sottolineata poi anche dai diversi passaggi di potere che ci sono stati nella storia, che sono rappresentati anche nella dotazione del castello, in quello che gli sta attorno. Nel 1363, vi dicevo, passa agli Asburgo. A lungo resta in rami secondari degli Asburgo il titolo di conti del Tirolo. Ecco quindi che nel 1370 arriva l'altare del castello come donazione da parte dei nuovi signori, che in questo modo vogliono confermare, consolidare la propria presenza sul territorio. Queste sono le portelle chiuse dell'altare, in cui sono presenti i nuovi conti del Tirolo con le rispettive mogli, Leopoldo III e Verde Visconti qui a sinistra, e Alberto III e Elisabetta di Lussemburgo-Boemia con la sua corona qui a destra. Poi vi dicevo di Federico IV, quando si sposta alla residenza a Innsbruck, dove inizia la decadenza del castello. Poi 1665 si estingue anche il ramo degli Asburgo, ramo tirolese degli Asburgo, e il Tirolo passa direttamente alla Casa d'Austria. I figli di Claudia de' Medici non hanno discendenti, e quindi il Tirolo passa direttamente alla Casa d'Austria. Anche la Casa d'Austria lascia un suo segno, anche se siamo un periodo in cui il castello non viene più curato, o viene curato molto poco, ma questo segno è comunque la via di accesso che oggi si utilizza per arrivare da Tirolo al castello, che è il cosiddetto Knappenloch, che è il buco dei minatori sostanzialmente, che viene scavato effettivamente da personale che proviene dalle miniere tirolesi. E nel 1682, vedete sopra, viene apposta poi una lapide commemorativa con l'effigie di Leopoldo I, che era stato appunto il primo imperatore austriaco ad avere il titolo di conte del Tirolo. Ecco, quindi questi simboli che marcano i passaggi di potere sono presenti nella storia. Se il castello in sé ha una lunga decadenza che va dal 400 fino all'inizio dell'800, l'inizio dell'800 segnano invece un cambio di passo significativo, che è un cambio di passo che è segnato da due elementi fondamentali, due dinamiche importanti. La prima è la rivalutazione del Medioevo come periodo storico. No? C'è questa rinascita medievale che è legata al romanticismo, che è legata a tutta una rielaborazione, insomma, di un mondo più o meno idealizzato che fa parte del Medioevo, in contrapposizione all'illuminismo e al classicismo, e dall'altra parte c'è anche il consolidamento dell'idea di nazione. Allora, queste due cose messe insieme, Tirolo, il castello come culla, in qualche modo, della nazione tirolese, chiamiamola così, e come importante vestigia medievale, diventano occasione per una rivalutazione del ruolo del castello, che diventa importante anche per cerimonie di natura politica. E quello vediamo rappresentato, per esempio, in questa bella rappresentazione di Edvard Gurk, dove si vede Ferdinando I, imperatore d'Austria, che infeuda, e questo è altamente simbolico, infeuda gli eredi di Andreas Hofer del fondo del Sandwirt, cioè dell'osteria che era di proprietà appunto dell'eroe tirolese nel 1840. Saranno tante altre poi le manifestazioni che avranno luogo nel castello proprio con questa sottolineatura del ruolo dell'edificio come punto di riferimento della storia tirolese. Qua tra l'altro è interessante vedere come la sala del palazzo sia una sala che era stata nel Settecento barocchizzata, vedete, con questi stucchi e questa stufa sul fondo. Poi facciamo un salto in avanti, vi dicevo, si arriva al passaggio dell'Alto Adige su Tirolo all'Italia, diventa un monumento di interesse nazionale, in qualche modo viene curato e studiato anche dalla sovrintendenza dell'epoca e dagli studiosi italiani, e poi finalmente nel 1974, con il secondo statuto d'autonomia, il Tirolo torna, passa alla provincia di Bolzano, e qui vediamo, insomma, questa immagine molto rappresentativa di Silvius Magnago che passa attraverso il portale della cappella del castello e sigilla questo passaggio importante. Ecco, da quel momento in poi il castello diventerà un oggetto che serve, una struttura che serve per valorizzare la storia del Tirolo. Questa è la sua missione, la storia dell'Alto Adige, questa è la sua missione. E dal 1984 c'è un'esposizione permanente all'interno del castello, che ha cambiato poi natura diverse volte, a un certo punto deve essere un museo archeologico, però poi, ecco, c'è una cosa da dire, fare, il direttore lo sa benissimo, fare le mostre in un castello è molto complicato, perché gli spazi sono quelli che sono, le strutture sono quelle che sono, garantire i giusti livelli di umidità, di temperatura all'interno delle stanze è difficile, le misure di sicurezza sono difficili da mantenere, insomma gestire un castello è complicato, no? Però si è sempre fatto, si è sempre provato, a un certo punto si voleva fare il museo archeologico, poi dopo ovviamente è arrivato Rizzi e ha ribaltato tutto, però dentro abbiamo oggi una serie articolata di collezioni permanenti che possono essere osservate, ci sono diverse che possono essere visitate, ci sono diverse sale che sono dedicate a questa cosa, ce n'è una che è dedicata in cui si trovano per esempio le fasi di edificazione del castello, un'altra dedicata a diritto e ordine dove si trovano documenti che certificano la storia dell'evoluzione del Tirolo, ma anche oggetti come questa maschera d'infamia che veniva imposta a chi veniva condannato per determinati delitti, e poi questo delizioso oggetto che è la cosiddetta coppa nuziale di Margherita del Tirolo, che in realtà poi probabilmente non era di Margherita del Tirolo perché è stata datata molto precedentemente, però vedete che ha una fattura molto, molto delicata e anche una bellissima incisione che recita così: Liebes langer Mangel ist meines Herzens Angel. Cosa vuol dire? La lunga mancanza d'amore è l'amo del mio cuore, oppure si poteva anche tradurre è la spina del mio cuore, no? In qualche modo, ecco questo bel passaggio, insomma, di poesia medievale. Altrove ci sono altre sale che raccolgono, per esempio, vedete qui le vedute di Castel Tirolo, i quadri che rappresentano alcuni principi, insomma, che hanno dominato la storia del castello. Una parte c'è la quotidianità al castello, con questa ricostruzione anche molto, molto riuscita, molto accattivante dal punto di vista grafico delle attività che nel castello venivano svolte. E poi, ultima ma non meno importante, non c'è solo il Medioevo a Castel Tirolo, c'è anche nel Mastio ospitato un'importantissima collezione che racconta la storia del Novecento. L'Alto Adige nel Novecento, sappiamo, ha avuto una storia complessa e tormentata, e all'interno di questo del Mastio è stata ricostruita questa storia del Novecento in un modo che trovo insolitamente equilibrato, perché è difficile ricostruire in modo equilibrato una storia difficile, complicata e dolorosa come quella del Novecento. Trovo che qui sia stata fatta in modo interessante, anche cercando di ricostruire non soltanto la storia vista dall'alto, ma anche la storia vista dal basso, con oggetti, testimonianze della quotidianità delle persone che hanno vissuto in questa terra, in questo periodo. Ma accanto alle esposizioni permanenti, ci sono poi le mostre. Dal 1991 sono state fatte una serie lunghissima di mostre su diversi temi. Una importante, che molti ricorderanno, è quella su Mainardo II, il sogno di un principe, no? Nel 1995, che è stata una svolta significativa anche nella storiografia locale. Ma, e qua ve ne faccio vedere alcune, insomma, le mostre hanno oggetti, hanno riferimenti di natura storica, su argomenti di natura storica, ma anche di natura storico-artistica, e vedete per esempio questa mostra del 2010 sulle vedute dei castelli, una mostra che a me è piaciuta moltissimo, quella del 2015, sulla ritrattistica infantile dal 1500 a oggi, con alcuni quadri deliziosi come quello che vedete qui. Ma a Castello arriva anche l'arte contemporanea, quindi ci sono anche mostre che ospitano lavori, realizzazioni di artisti contemporanei su tirolesi e non solo su tirolesi. Qui le mostre degli ultimi 10 anni, per farvi vedere l'attività che è stata fatta nel castello, si va appunto 2014, vedete spesso le date sono in corrispondenza di ricorrenze storiche, no? Inizio della prima guerra mondiale 100 anni prima, e quindi si è ricordato Robert Musil e la grande guerra. Musil era residente qui a Bolzano, aveva scritto nella rivista dei soldati, insomma ricorda la sua esperienza in Tirolo, poi dopo appunto la ritrattistica infantile. 1517, Lutero attacca le sue 95 tesi contro l'indulgenza al portone della cattedrale, e nel 2017 quindi si ricorda questa cosa e si cerca di rappresentare anche il rapporto complesso, conflittuale fra il Tirolo e la Riforma. E via via vedete Federico, Massimiliano, poi la scuola pittorica della Valpassichia, il Tirolo nelle mappe storiche, una bella storia del teatro in Tirolo recente del 2022 e adesso appunto l'esposizione dell'altare. Ma non sono solo le mostre che contano, le mostre sono importanti e e ovviamente attirano il pubblico, ma accanto alle mostre poi escono anche i cataloghi, quindi qualcosa di stabile che resta nel tempo, e parallelamente alle mostre spesso si fanno anche convegni scientifici, spesso di ottimo livello, che indagano gli argomenti in materia. Quindi è un castello, ma è anche un centro di ricerca, un centro che attira studiosi e che produce innovazioni in ambito scientifico. E da questo punto di vista quindi è un'idea di museo, se vogliamo, decisamente ampia. Ecco, le mostre che hanno avuto luogo l'anno scorso sono quella sull'altare, che è la mostra centrale, quella più importante, poi una mostra appunto sull'attività di Arnold Holzknecht, che è questo artista contemporaneo di cui tutti noi abbiamo visto un'opera importante a Bolzano. Cosa ha fatto Holzknecht? La scritta che vedete sul Palazzo degli Uffici Finanziari in Piazza Tribunale è una sua realizzazione, la scritta luminosa sulla quale le opinioni si dividono, però insomma è una sua realizzazione. E poi dopo c'è questa mostra sulle vedute di Castel Tirol, di cui dirà poi molto meglio di me dopo Paola Bassetti. Qui, per farvi vedere alcune delle pubblicazioni che sono state curate dal castello nel tempo, qui una sul grano e le macine in Tirolo, frutto degli interessi del direttore precedente, che era un antropologo, etnologo, quindi interessato anche a questi aspetti di cultura materiale, uno sui sondaggi archeologici intorno al castello, questa è stata un'altra mostra interessante sugli ebrei, gli ebrei in Tirolo, che ha dato luogo anche a una pubblicazione, una serie di pubblicazioni estremamente interessante. E accanto però all'attività scientifica c'è anche un'attività di divulgazione che è diretta a un pubblico decisamente più ampio, quindi vedete anche questo catalogo degli oggetti che sono nella Torre della Memoria, che è un catalogo ovviamente costruito in maniera tale da avere un impatto anche per un pubblico di non specialisti, e poi anche pubblicazioni e giochi dedicati anche al pubblico più giovane, che sono insomma per cercare di attirare l'interesse dei ragazzi intorno alla storia del castello. Infine, intrattenimento e incontri istituzionali. Il castello è anche un palcoscenico per serate a tema. Consiglio a tutti di partecipare almeno a una di queste serate, che sono veramente affascinanti. Sono passati anche grandi nomi, ho visto dei concerti straordinari. Giornate medievali con riproduzioni di costumi, giochi, cucina medievale, e poi anche il ruolo istituzionale, chiaramente. Qui vediamo il presidente, un treffen, insomma, dove c'erano Mattarella, Van der Bellen e Kompatscher, che il 23 novembre del 2019 hanno visitato in una giornata nebbiosa il nostro castello. Allora, come vedete, quindi, no, intorno a questo castello c'è una storia importante, continua ad avere una funzione simbolica significativa, ma oggi è soprattutto un luogo che produce cultura a vari livelli. È un luogo però che ha dei limiti, dei vincoli strutturali e infrastrutturali significativi. Per dire, non ci si arriva in pullman a Castel Tirolo, no? Ogni trasporto è complicato e, come vi dicevo prima, è anche un castello che per la sua struttura ha spazi limitati che richiedono degli sforzi eroici, insomma, a volte per poter allestire le mostre e le esposizioni, anche se i risultati sono decisamente importanti, appunto con questa capacità di coniugare questi diversi aspetti, divulgazione, ricerca, intrattenimento e ruolo istituzionale. Ci sono alcune questioni aperte che vi accenno solo rapidamente perché poi magari sono noiose. Una è quella della governance. Che tipo di istituzione è Castel Tirolo? È stata a lungo un'istituzione autonoma, con un suo status particolare. Poi nel 2017 abbiamo avuto la legge per i musei, sui musei e sulle collezioni, che è una legge importante per la nostra terra, perché l'Alto Adige ha competenza primaria sulla cultura e quindi anche sui musei, ha questa azienda musei adesso che coordina l'attività dei musei provinciali. Questo è un strumento di coordinamento importante, ma il Castel Tirolo ha perso in qualche modo la sua autonomia ed è entrata a far parte di questo consesso un po' più ampio. Poi non so, mi dirà Leo se era meglio prima o meglio adesso, non lo so, ma magari ne parleremo in un'altra occasione. La questione delle risorse finanziarie, perché un castello come Castel Tirolo richiede investimenti importanti, continui, per il mantenimento della struttura e anche per riuscire a presentare le mostre, le collezioni in maniera adeguata. E noi sappiamo oggi come la questione dei finanziamenti pubblici alla cultura sia un problema rilevante chiaramente in un periodo in cui i finanziamenti pubblici sono gravati da altre priorità. Ultimo e non meno importante, le risorse umane per fare tutte queste attività ci vogliono persone che siano continuamente attive e capaci, e spesso insomma il direttore lavora anche di notte a fare cose che dovrebbe fare qualcun altro, ma che sono rese difficili dal fatto che il personale è quello che è. Allora, tutta questa cosa per invitarvi a visitare Castel Tirolo, che è un posto che veramente merita. Grazie per l'attenzione. Sì, signor. Sì, esatto. Sì. Un po' resta a Castel Tirolo, però dopo i conti decidono di spostarlo a Innsbruck. Allora, sono rami diversi, c'è una partizione, poi ci sono diverse partizioni dei territori che avvengono nella storia, ma tra i vari rami degli Asburgo il titolo di conti del Tirolo resta rami secondari, che non sono i rami viennesi, fino al 1665, quando invece con la fine della linea maschile degli ultimi conti dell'ultimo ramo tirolese degli Asburgo, il titolo passa alla Casa d'Austria. E questa cosa... Sì, esatto. Sì. Sì, sempre Asburgo, però in realtà sono rami di famiglie che hanno domini su territori diversi e quindi hanno titoli diversi, hanno potenzialità diverse. Sì, esatto. È così, sì, è una vicenda un po' complicata, ma... ha senso, perché comunque noi dobbiamo concepire l'idea dello Stato dell'epoca non come uno Stato centralizzato come lo concepiamo noi oggi, ma in uno Stato in cui ci sono realtà che hanno sovranità territoriali, che sono legate in maniera con gradi di forza diversi rispetto all'unità centrale, che era impero, era Stato, insomma aveva tutta una serie di sfumature, no, che rendono questi legami insomma così complessi. Bene, grazie. Beh, scusami, passo la parola subito. Sì, tranquillo, no, devi solo aiutarmi a togliere, a mettere. Sì, adesso facciamo subito. Io provo a mettermi in una posizione così per vedere voi e vedere anche l'immagine. Non ho il telecomando, poi faccio confusione con il microfono, telecomando, non mi trovo. Questi sono i momenti terrorizzanti delle conferenze, perché noi che parliamo sulle immagini, senza immagini possiamo chiudere. Grazie mille. Non è se riesco bene, solo che non volevo toccare le tue cose. Sì, non vorrei avere la testa sulle immagini, perché se mi metto qua la testa va sulla proiezione. Intanto cerco di parlare e ringrazio Andrea per questa premessa, perché torna utile anche a me, nel senso che fare le conferenze d'arte con uno storico ci allevia di molte informazioni che altrimenti avrei dovuto dare e non sarei neanche riuscita a stare nei tempi. Io faccio parte del Comitato Scientifico di Castel Tirolo da molto meno tempo, da alcuni anni, quindi non ho ancora l'esperienza che ha Andrea Bonoldi, Ma ho partecipato con molto interesse, pur con il Covid in mezzo, a tutto quello che è stato organizzato. Ho capito come funziona la programmazione, avete visto che ce n'è tanta, come funziona la ricerca, come funziona questo gruppo stimolante, eterogeneo, mistilingue, che porta, diciamo, le proprie competenze, le proprie opinioni, sperando di essere di supporto appunto al direttore, al suo lavoro e alla ricerca. E per parte mia ho il compito, inizio un po' lentamente perché di solito io non è che mi preparo le cose a memoria, vado a braccio e il materiale è moltissimo. La mia competenza di oggi è quella di riassumere, ovviamente, ma di presentare una grossa mostra che c'è stata lo scorso anno, nella prima parte dell'anno, che è proprio Casteltirolo nell'arte, in particolare le vedute di Casteltirolo, tutte le immagini diciamo che sono presentate in questo catalogo, su cui vorrei spendere una parola, perché non è soltanto il catalogo della mostra, quindi con le immagini, la schedatura delle opere esposte, ma è un compendio che ha in fondo un censimento completo ad oggi di tutte quelle che sono le immagini di Casteltirolo, dalle prime, dalle più antiche fino a quelle contemporanee novecentesche, sul mercato antiquario, tra i collezionisti, nelle ricerche, ne sbucheranno sicuramente altre, ma anche per uno studioso, non solo per la persona interessata, questo diventa un manuale di ricerca, di partenza o di approfondimento molto importante. Quindi, come diceva prima Andrea Bonoldi, il fatto che le mostre, che sono spesso anche frutto di approfondimenti e nuove ricerche scientifiche, rimangono all'interno di volumi che poi restano, sono consultabili e sono passibili poi ovviamente di aggiornamenti quando possibile. Fatto questo cappello, questa grossa mostra, che era divisa in 15 sezioni, tanto per darvi un'idea, non ve le propongo tutte, ho cercato, insomma, in questo mare magnum di immagini di poter fare una scelta, grazie anche diciamo al materiale che mi è stato fornito direttamente dalla direzione, cercare di fare una cavalcata, diciamo così, tra le immagini del castello, dalle prime, insomma, più godibili, fino alla contemporaneità, passando attraverso periodi storici, modi stilistici, tecniche grafiche, disegnative, pittoriche, atmosfere, diverse angolazioni di veduta e motivazione anche di queste scelte. Tutto questo cercherò di comprimerlo in un commento a susseguire delle immagini. Non mi soffermerò su tutte, su alcune darò dei concetti chiavi, poi alcune le mando magari a scorrere. Questo per dare una forma, diciamo un anticipo di quello che intendo fare. E con queste prime immagini, che sono seicentesche, noi abbiamo una prima visuale di Casteltirolo verso ovest, quindi dalla sua parte meridionale. E le chiamiamo già vedute per comodità. In realtà il vedutismo, così come noi lo conosciamo oggi, ancora non esiste, cioè il vedutismo diventa un genere pittorico disegnativo autonomo nel Settecento. Tutti conosciamo Canaletto, ma i vedutisti sono moltissimi, non sono solo veneziani, non sono solo italiani, anzi il fondatore del vedutismo è Van Wittel, che è un olandese italianizzato col nome Van Vitelli, da lui nasce un po' tutto il percorso. Vedutismo cosa vuol dire? Vuol dire genere autonomo, come il ritratto, come il paesaggio, come il soggetto storico e quello religioso. Per comodità le chiamiamo così perché di fatto sono delle visioni, sono delle visuali del castello. Il castello è protagonista di tutte le immagini, ma a differenza di quello che uno può pensare, il modus con cui viene rappresentato e percepito dall'osservatore è sempre diverso. Basta un tocco di colore, basta una diversa angolazione, basta un diverso punto cardinale, basta un dettaglio paesaggistico, la presenza di un personaggio per cambiare completamente l'atmosfera e la percezione proprio del gusto. Queste quindi sono importanti, sono dei disegni che appartengono al codice Brandis, appunto questo codice con tutte queste diciamo visioni visuali, paesaggistiche del Tirolo commissionate da lui che si trovano all'archivio provinciale. E qui abbiamo già due immagini con un disegno a tratto molto veloce, molto abile, il disegnatore è anonimo, non ne conosciamo per ora il nome, ma sicuramente è dotato di grande abilità, con pochi segni veloci c'è già tutto quello che serve: il gruppo montuoso, il castello che ha arroccato, il castel Fontana che sta sotto, le vedute del borgo, talvolta è Tirolo, talvolta è Lagundo, talvolta è la Valle dell'Adige, vedremo le diverse angolazioni. Questo tra le più antiche. Sempre seicentesco, un po' più avanti, un poco più avanti della metà, un acquaforte, quindi un'incisione. Qui voglio, più volte lo dirò, quanto la tecnica incide sulla modalità di presentazione dell'immagine e quindi sulla comunicazione visiva. Allora, mentre il disegno è vibrante, ha un tratto veloce, lo potremmo definire anche solo uno schizzo quello, però è uno schizzo che già ci indica di come intorno al 600 si comincia a sentire l'esigenza di rappresentare anche qua il paesaggio in una maniera veritiera, veristica, non dico topografica, ma quantomeno dove l'ambiente, l'ambientazione, il luogo, anche se non contrassegnato dal nome, può diventare riconoscibile. E questo è un passaggio molto importante che sta tra il realismo, il naturalismo, l'esigenza di una rappresentazione di paesaggio che nasce al suo apice proprio nella pittura, nella grande pittura del Seicento. La grafica ha un'altra funzione. La grafica è quello che noi oggi potremmo definire la divulgazione dell'immagine. La grafica attira tutti, che possono raggiungere anche grandi numeri già a partire dal 500. La grafica è ormai una tecnica consolidata, raffinata e utilissima ai pittori per la diffusione proprio delle stampe. In questo caso il luogo di Castel Tirolo, che rimane per tutti i viaggiatori che cominciano a passare già numerosi per motivi commerciali ma anche religiosi, e non ultimo per motivi di istruzione, di viaggio, per motivi artistici, proprio a partire dal 600, per avere il suo apice nel 700 con il Grand Tour e nell'800 con il Romanticismo, dove un paesaggio e luoghi come quelli del Tirolo, dove ci sono picchi alpini, vallate, castelli, rocche, paesaggi diciamo particolarmente affascinanti e coinvolgenti, attirano lo spirito del narratore romantico. E, qui per esempio abbiamo una veduta, chiamiamola sempre così fra virgolette, da un'angolazione del tutto simile, però molto molto più precisa. Vediamo i vigneti a terrazzamento che in diversi modi troveremo espressi tantissime volte, vediamo un castello più completo, completo, e le foto che ci ha indicato all'inizio Andrea Bonoldi, mi tornano molto utili, perché così avete ben presente quest'idea della rappresentazione del castello com'era, o comunque con le parti mancanti, o con questo rebus, chiamiamolo così, di una torre che c'era ma molto presto non c'era più, che in qualche veduta si vede sotto forma di rudere, in qualche altra nemmeno si nota, cioè non è la parte che più si evidenzia, se non la parte invece del palazzo. Si vede la forra dei castagni, che è qua sotto con il ponte. Molte vedute, vedremo, vengono realizzate proprio da qua sotto, con una visuale da sotto in su, in questo senso, verso sud del castello. E il titolo che vedete sopra corrisponde alle sezioni della mostra, o almeno a quelle che io ho inserito, perché ne ho dovute togliere una serie, quelle magari più prettamente storiche, che peraltro ha anche anticipato e di cui ha parlato Andrea Bonoldi, e ho lasciato invece quelle che più erano veicolanti di un discorso storico-artistico. Questa è un'immagine che io trovo interessantissima e anche divertente, se posso usare questo termine, perché è un'incisione, anzi è un disegno a penna che diventerà poi in futuro la matrice per delle incisioni, che è un putpourri, scusate, vedo l'immagine molto piccola nel computer, un putpourri dove dentro una cornice di roccia che funge da arco, sovrastata dall'aquila, che è insomma il simbolo del Tirolo, sopra una caverna dentro la quale c'è una crocifissione, quindi fosse anche una sorta di calvario, sotto vediamo la rocca del castello, ai lati la torre Druso, qui la rovina della torre di Malles, c'è Merano, a destra c'è Innsbruck a sinistra, e poi vediamo una serie di elementi come per esempio il dio Mercurio, il dio del commercio, con il suo caduceo che poggia i piedi sopra la lapide del dio Mitra, che si trova a Vipiteno. E inoltre ci sono queste steli ai lati con queste pietre miliari di epoca romana, comprensive di monete con gli imperatori, addirittura delle coppelle di terracotta di età del ferro e la famosa cista di Appiano dell'età del bronzo. Che cosa? Ah, e poi ancora, se noi andiamo a guardare sopra, dietro, ci sono le conifere e l'uva, che erano una delle fonti principali di sostentamento, e dietro sulle montagne piccole piccole piccole si vedono le figure dei minatori nominate anche prima. Che cos'è? È un riassunto di un personaggio che ha evidentemente fatto un ampio giro all'interno del territorio, creando poi un cosiddetto capriccio, cioè una visione di fantasia, con elementi però legati alla realtà paesaggistica e alla realtà storica. Quindi questo è un esempio sicuramente molto interessante. Una cosa che, torno indietro, non se la figura, ho messo in azzurro quando l'opera, il disegno, la carta, l'incisione è nelle collezioni di Casteltirolo, che negli anni ha operato un'intensiva e sempre molto attenta campagna di acquisti, proprio per dotarsi, ovviamente essendo protagonista di tutte queste immagini, per dotarsi laddove possibile e ampliare la propria collezione, che quindi è in fieri assolutamente. Siccome non posso di ogni immagine esprimere anche tutta la didascalia, le notizie insomma sono sotto. Ferdinand Runck, un paesaggista bravissimo, qui ci spostiamo nell'Ottocento, perché poi l'Ottocento che esprime al massimo, al meglio e nella sua varietà più incredibile, diciamo, le visuali, le vedute, i dettagli più o meno realistici del paesaggio e dell'ubicazione del castello. Ferdinand Runge, dato che conosciamo l'autore, vale la pena di spendere una parola, è un paesaggista molto delicato, molto bravo, con una bellissima mano, che ama molto l'acquarello, soprattutto questo acquarello in grigio, questo acquarello quasi monocromo. E abbiamo una bellissima veduta dove il castello non domina assolutamente, cioè non appare come soggetto principale, per un'attenzione invece rivolta a un paesaggio estremamente naturalistico, dove in primo piano l'acqua è quella del fiume Adige, quindi siamo alla fine della valle dell'Adige verso Merano. Abbiamo una natura di lungo fiume molto bella, questi accenni molto slavati e molto trasparenti, nonché molto sintetici, ci danno comunque un nulla, tolgono al realismo del paesaggio, anzi conferendogli una certa poesia. Questa è la Fora dei Castagni di cui vi parlavo prima, di cui si vedeva il ponticello, con la visione del castello molto da sotto in su, in questo caso sì, che lo rende dominante. Qui si vede per esempio il mastio sotto forma di rudere. E prima Andrea Bonoldi ha spiegato molto bene come il castello, diciamo, dopo il trasferimento della residenza a Innsbruck sia andato in decadenza. Ciò nonostante, era un pochino la mecca di tutti i castelli, di tutte le rocche che i visitatori potevano diciamo avvicinare, disegnare, appuntare sui loro taccuini, e lo rimane sempre. Quindi nessun viaggiatore o artista che passava per il Tirolo poteva prescindere da un'escursione al castello. Tutti gli artisti viaggiatori erano dotati di taccuini di viaggio. Noi stiamo parlando di disegni di dimensioni piccole, no? Della forma di un taccuino, di un libro, di una Moleskine, diremo oggi, e chi solo con pochi tratti, chi facendo invece addirittura un disegno acquarellato, una china slavata, dava forma alla propria visuale. Questa è una rara veduta del palazzo meridionale del castello, con la sua bellissima vigna davanti. E il tema della vigna e dell'uva che diciamo i vigneti circondavano insieme ai castagni il castello è un tema che troviamo un pochino sempre nelle vedute più o meno esplicito, ma ci dà anche l'idea che in queste rocce molto friabili, tra resto nelle diverse vedute, si vede nel tempo anche una differenza quando sono veritiere, quando sono topografiche. E nell'Ottocento sì che possiamo parlare di vedutismo ormai ampiamente, anche quando sono topografiche, si può vedere nel tempo come questa roccia si è rimpicciolita, si è consumata, si è abbassata nella parte davanti, fino a creare sul retro addirittura un inizio di piramidi di terra come quelle del Renon. Questo è anche un bellissimo acquarello, sempre di Runge. Vediamo il castello da dietro, diciamo, verso tutta questa bellissima valle dell'Adige in fondo, come le foto che ha proiettato prima mi sono molto utili, perché l'impianto di veduta è assolutamente identico, e qui i chiaroscuri ci aiutano tantissimo ad avere una grande profondità. Parlo sempre di piccole dimensioni. Disegnatrici e disegnatori inglesi. Allora, abbiamo parlato dei viaggiatori nel periodo romantico, che è uno dei momenti stilistici forti dell'Ottocento, tant'è vero che si può sicuramente parlare anche di un romanticismo del Tirolo. Viaggiatori soprattutto inglesi e germanici amano molto, per i motivi che vi ho detto prima, passare per questo territorio, cogliendone anche semplici dettagli, come per esempio questa vigna, questo vigneto con in trasparenza il castello sullo sfondo. Poi è abbastanza interessante perché il castello, a seconda dell'interesse dell'autore, viene definito più o meno, nel senso che qui vediamo una sorta di, diciamo, rocca con una dimensione importante. Qui il castello lo dobbiamo quasi cercare, eccolo qua, abbiamo un disegno a penna molto, molto acquarellato, molto sfumato, e dai colori, dalle tinte un po' fosche, dove abbiamo sentieri, passaggi che sembrano non andare da nessuna parte, cioè danno quel senso di mistero che spesso i disegni del periodo romantico amavano dare. E questo è anche nelle collezioni del castello, un bellissimo pezzo, oltretutto è di una artista donna, mi piace sottolinearlo perché a queste date non è così frequente, artista, viaggiatrice e bravissima disegnatrice, perché qui almeno in un'immagine proiettata a prima vista sembra un'incisione e invece è un disegno a matita, questo sempre per darvi anche il senso, no, del, come posso dire, il senso del tratto, se è slavato, se è acquarellato, se è in bianco e nero, se è a colori, ci fornisce dettagli, sensazioni diverse, conduce l'occhio in modi diversi. Un'altra caratteristica che ogni tanto vedremo essere presente è quella dei personaggi. I personaggi possono essere di vario tipo, possono essere borghesi che passeggiano, molto spesso sono contadini, perché appunto abbiamo detto che il terreno era coltivato a vigna, quindi vediamo spesso dei vignaioli con la gerla o delle donne che trasportano le messi, o semplicemente persone che si siedono a conversare, come in questo caso, con i costumi accennati del burgraviato, in altri esempi si riconoscono anche di più. E molto bella anche qui la profondità, vedete come il tratto si schiarisce sul fondo e come riesce a dare il senso del cielo e delle nuvole sopra il castello, cioè come, diciamo, riesce a mutare il segno e la punta della matita dagli elementi in primo piano molto dettagliati fino a riconoscere le foglie degli alberi a questo cielo invece con queste nuvole sottili e velate. Questo Castel Tirolo è di un anonimo, probabilmente un inglese, vedete che è leggermente sfumato con il colore, sono due visuali diverse, sono due punti di vista diversi, ecco qua la galleria Knapperloch di cui parlava prima Andrea, ovviamente diciamo oggi si presenta in modo diverso, ma il passaggio ancora resta, è angusto, è stretto, anche una macchina molto grande non riesce a passarci. Da qui le considerazioni che si facevano prima, al castello bisogna andare a piedi e provate a pensare cosa può essere l'organizzazione di un trasporto, di una mostra o l'organizzazione di eventi. Ecco, bisogna proprio saperci andare, volerci andare, trovare il gusto di andarci, e ne vale sicuramente la pena in tutte le stagioni. E tranne in inverno che il castello è chiuso, ma insomma per stagioni intendo un bel autunno con i suoi colori, la primavera con l'ultima neve sui monti del Tessa, l'estate per fare una passeggiata al sole come uno desidera. E a me piace molto, poi il direttore magari mi corregge o poi mi dice ma che vai a raccontare, ma siccome ha dato a me il compito di fare quella cosa, la cosa dico anche la mia, e la mia è che quando il tratto è veloce, il senso di immediatezza procurano una comunicazione molto veloce con il paesaggio e un coinvolgimento emotivo molto maggiore, poi ve lo faccio vedere anche nelle immagini più raffinate, diciamo così, fra virgolette, un coinvolgimento molto maggiore nello spettatore rispetto a quando ci sono anche numerosi dettagli in cui ci perdiamo, ma appunto ci perdiamo alle volte senza cogliere quell'atmosfera d'insieme. Il pericolo è un po' questo. Rimaniamo sempre un po' su questa tipologia, e il castello, insomma, adesso non voglio ripetermi, il mastio, le diverse vedute ci danno diverse vedute di valle, di montagna, di contorno, e il castello è sempre protagonista, alle volte riempie l'immagine, e, come in questa immagine di destra, che fatica che faccio qua. Va bene, non fa niente. L'immagine di destra, eccola qua, e l'immagine di sinistra, insomma, con il sentiero di attraversamento, e ecco qua tutti i terrazzamenti a vigneto. Qui bisogna spendere due parole, siamo di nuovo davanti a una donna artista, definita proprio la disegnatrice di castelli. Perché? Perché la Isser Grossrubacher ha avuto il compito, anche gravoso probabilmente, ma comunque un compito grandioso, che ha gettato anche basi importanti per le vedute di Castel Tirolo, Tucur, ma per i castelli in generale. Lei è proprio, ha fatto il primo censimento vedutistico, se così possiamo dire, di tutti i manieri, di tutti i castelli, di tutti i ruderi del territorio. Quindi sono centinaia e centinaia di raccolte, di fogli singoli, di album, e questo naturalmente necessitava di una certa precisione disegnativa, per cui se voi guardate il castello, non guardate me, se voi guardate il castello, se voi guardate come sono disegnati gli aspetti naturalistici, le coltivazioni, i picchi montuosi, il ponticello, un censimento deve dare molte informazioni e deve rendere riconoscibili i luoghi, e quindi diciamo il dettaglio diventa tout court parte integrante dell'esecuzione della veduta. Qui apriamo un altro capitolo che in realtà cronologicamente sta dentro il grande, come posso dire, il grande movimento del romanticismo nelle sue diverse sfaccettature. Il Biedermeier è uno stile così dei primi decenni dell'Ottocento fino agli anni 40, che si sviluppa soprattutto in Austria ma anche in Germania, che comprende l'arredamento, è un po' come lo Jugendstil, diciamo, a tappeto, comprende un po' tutto quello che comprende la vita quotidiana, i passatempi, le case, lo stile, il comportamento della borghesia. E quello che il Biedermeier ci fornisce come vedute sono vedute molto interessanti, come per esempio questa, anche appartenente alle collezioni, a mio avviso molto poetica, molto bella, con questo contadino in primo piano che porta nella gerla l'uva, con questo bellissimo vigneto, cioè realizzato proprio sulla destra con un naturalismo. Guardate il fogliame verde degli alberi sotto il maso, e guardate qui come si capisce che è una roccia friabile, una roccia erosa, dove il castello sembra essere quasi sul bordo e insomma potrebbero essere anche già avvenuti dei crolli, per fortuna non ne sono capitati. Qui per esempio la torre, voi non vedete il mouse sulle immagini, vero? Non so come mai. Vabbè, ve le indico, qui per esempio la torre la vedete appena abbozzata, ma sparisce completamente anche cromaticamente sulla montagna, molto molto bello. Viceversa, sempre all'interno di un'offerta in stile Biedermeier, questo Ludwig Frommel, quest'artista innanzitutto è un olio, questo, quindi è uno dei pochi oli su tela che vediamo, quindi aumentano un po' le dimensioni, ovviamente la presenza del colore, la tecnica, l'olio permette... Sì, grazie. Io non sono una docente universitaria, non sono dotata del mio kit per le conferenze, uso quello che trovo nei diversi posti, alle volte non c'è neanche il microfono, quindi sono già molto contenta. E dicevo, siamo all'interno di uno stesso periodo, siamo dentro lo stesso soggetto, siamo all'interno di un momento storico che è quello del Biedermeier, con un risultato visivo completamente diverso. Allora, qui innanzitutto c'è molta accademia, c'è molto disegno, c'è molto studio, e c'è molta teatralità. Questa è una quinta scenografica, è un anfiteatro, potrebbe essere una quinta teatrale, dove due personaggi conversano amabilmente in una natura naturalistica, natura vera, ma allo stesso tempo completamente inventata dal pittore, nel senso che questa veduta il pittore l'ha accolta e poi l'ha interpretata e se l'ha inventata. A me questi sembrano più dei pini marittimi che dei castagni, quindi si inventa una vegetazione anche un po' mediterranea, questi grandi massi. Quando esce dalla quinta teatrale, guardate il castello, eccolo qua, il mastio eroso e la parte staccata e queste punte che insomma non erano proprio così, però servivano per dare l'effetto. Quando esce da questa quinta e oltrepassa Castelfontana, si apre una valle dell'Adige bellissima, cioè dipinta, guardate il cielo, guardate le nuvole, che naturalismo, che bellezza, sembrano quelle di Constable. Sempre all'interno di questo stile, la pittura Biedermeier, già non so più come si fa, qua sì. La pittura Biedermeier ama molto inserire personaggi. Personaggi nella pittura ad olio di questo stile, che è uno stile acquietante, accomodante, poco misterioso come può essere il romanticismo, molto rassicurante. I personaggi servono a dare quel tocco un po' idilliaco, un po' poetico, un po' di racconto agreste, e privilegiano di solito i contadini piuttosto che i viandanti. E anche qui c'è un uso di una quinta scenografica, il punto di vista è lo stesso. Quando usciamo dalla quinta, l'apertura sulla Valle dell'Adige, questo è il mio punto di visuale preferito e molto amato anche dai pittori dell'Ottocento, perché riescono ad arrivare veramente fino alla Mendola e al Macaillon col digradare dei colori. E è molto bello vedere anche come l'Adige ha ancora a queste date, siamo verso la metà dell'Ottocento, le sue grandi anse, cioè le grandi opere di rettificazione del fiume e di tutte le problematiche ovviamente che le grandi anse creavano, in primis con le alluvioni, sono relativamente recenti. Insomma, noi abbiamo fotografie e immagini e vedute che ci presentano ancora, così come a Bolzano per esempio le vedute con l'Isarco, completamente diverse da quello che noi vediamo oggi. Ecco, nel nostro caso le vedute non è che servano come ricostruzioni topografiche in senso stretto. Allora, se noi pensiamo alle immagini veneziane di Canaletto, per i restauri hanno ripreso per esempio i motivi delle pavimentazioni, cioè erano veramente delle fotografie fatte a pennello, non a caso usava la camera ottica, che era una macchina per le inquadrature precise, proporzionate, topografiche, che sono un po' genitori della macchina fotografica. Però questo olio si lascia un po' dietro alle spalle questo aspetto accademico, teatrale e molto scenografico, a favore invece di un paesaggio verdeggiante, sempre con, con il Ponticello, siamo sempre nella forra, in questo caso dei castagni, quindi scompare la Valle dell'Adige, ma tutto sembra più impervio, più verticale, più montuoso, più affascinante in un certo senso. Bellissima l'immagine naturalistica che dà, guardate anche il vigneto a terrazzo, cioè è reso con grandissima maestria. Questi sono quelli che vengono comunemente chiamati guazzi, cioè dove c'è l'intervento di questi elementi molto bianchi che potremmo confonderci quasi come una prima neve, una prima spruzzata di neve, ma poi insomma li ritroviamo anche sulla facciata delle case, le ritroviamo nelle mura del castello, quindi in realtà sono proprio un metodo disegnativo che voleva dare guizzi di luce all'immagine per attirare l'occhio e diciamo conferire una certa atmosfera all'immagine. In questo caso questa matita acquarellata è tutta giocata sui toni del marrone, ecco una coppia di contadini o di persone in costume del luogo, non vedo bene, che si incontrano e conversano amabilmente. E la riproduzione su larga scala. Allora, ho già detto prima che il disegno da taccuino o anche lo schizzo poi rielaborato in atelier sono un discorso. Le stampe, cioè la tecnica stampa, quindi su una matrice che normalmente era metallica, era rame, erano acque forti, acque tinte, oppure erano litografia dove la matrice è la pietra. Anche la matrice conferisce differenza nel segno, che può essere più o meno sottile, più o meno minuzioso, più o meno dettagliato. Certo, la stampa aiuta a diffondere enormemente, qualora ce ne fosse bisogno, la fama del castello e dei suoi dintorni. L'Ottocento e il primo Novecento, poi ne riparliamo un attimo dopo, saranno anche i momenti in cui Merano vivrà un periodo d'oro legato al turismo, però in questa fase siamo ancora legati per esempio alla nascita delle guide turistiche, gli editori, gli stampatori mandavano gli artisti a fare carrellate di disegni di luoghi che potevano essere il Tirolo, ma poteva essere anche l'Austria, la Francia. Li mandavano in giro e in questo modo si davano indicazioni geografiche, paesaggistiche, artistiche, insomma a tutti i livelli, come se noi oggi andassimo a vedere internet per cercarci un itinerario di viaggio. In questo caso c'è un esempio bellissimo, un bellissimo pezzo, un trio diciamo così, a Castel Tirolo, perché noi abbiamo l'acquaforte, quindi l'incisione su rame, abbiamo la litografia a colori, detta anche cromolitografia, quindi con l'incisione su pietra, stessa identica veduta, stessa rielaborazione da questa matrice, che è la matrice in rame, che è servita per la realizzazione di questa incisione, non di questa. Ancora oggi la litografia è molto usata e tendenzialmente le matrici vengono spaccate in modo tale che, deciso un numero di copie, non ci sia la possibilità di farne altre riproduzioni. Non era così un tempo, però è molto raro trovare la stampa con la propria matrice, quindi sicuramente una cosa interessante. E ecco, insomma, la riproduzione su larga scala, non mi ripeto, qui passo. E questa, diciamo, nella riproduzione su larga scala ottocentesca noi troviamo un pochino tutte le angolazioni di vedute, troviamo un po' tutti gli stili, più virante verso il romantico, più virante verso l'accademico, più virante verso lo schizzo acquarellato, un pochino tutto quello che noi abbiamo cercato già di mettere a fuoco e di individuare, che si diffonde, diciamo, in modo misto, diciamo così. Non c'è una prerogativa per cui si segue una linea principalmente piuttosto che un'altra. E, ecco, insomma, questa è sempre il taglio di veduta con Castelfontana qui ridotto un po' a un rudere spettrale che conferisce, insomma, questo taglio romantico. Per il resto una bellissima veduta autunnale, guardate il rosso delle foglie di questi castagni. E questa l'ho messa perché mi piace moltissimo che sia rimasta quella che noi oggi chiameremmo la palette dei colori, no? Che in grafica, nel design, gli architetti, cioè la palette è diventato anche nel trucco, mi compro la palette di trucchi, è una delle parole moda della contemporaneità. Fantastico, perché qui c'è la palette dei colori, cioè i colori, le tinte che l'artista usa per la sua veduta sempre verso la Valle dell'Adige, decisamente di fantasia. Allora adesso avete capito che la veduta può essere topografica o può essere di fantasia o può essere una via di mezzo, può essere topografica nel senso che il luogo è quello, l'angolazione è quella, il castello è quello, ma l'interpretazione, il modo di disegnarlo e la resa dei dettagli possono avere mutazioni infinite. Due parole su questo, cerco di accelerare, siete stesi credo fra un po', ma però sono quelle cose che non si vedono mai e non ci si sofferma a guardare anche perché non si vedono bene, non si capiscono tanto. Questo è il frontespizio di una raccolta di disegni, guardate addirittura esiste una tale specializzazione nella tecnica dello stampatore che diventano molto spesso due mestieri diversi. C'è chi fa il disegno e chi realizza la matrice e poi a seguire le stampe. Questo per dirvi diciamo la connotazione, l'importanza che la tecnica ha. Questo è un frontespizio di una raccolta di disegni, di vedute, di luoghi che riguardano il territorio. Al centro c'è Castelfontana sulla rocca. Qui vediamo un ramo che inizia a fare da cornice con una figura femminile che con un cesto, con della frutta, delle mele, due figure con il costume del burgraviato, la fauna e la flora, diciamo, alpina, quindi dallo stambecco all'aquila, alle civette, alle poiane, le conifere che vanno storte perché naturalmente questo è il pretesto per fare una cornice, e poi con questi due tondi molto divertenti con il ballo e il tiro a segno che erano i principali passatempi della borghesia fin da epoche precedenti, fin dal Settecento. C'è tutto mare magnum che riguarda il tema del ricordo di viaggio, del souvenir, della curiosità, di cui ci sono cose splendide, straordinarie, sia perché hanno un gusto di macchietta, sia perché sono veramente pezzi importanti, oppure delle curiosità. Questa, per esempio, è un cappelliere, Hutmacher in Meran, che si fa stampare la Mecca del suo territorio, che è Castel Tirolo, per la foderatura della cupola del cappello, in modo tale che dentro il cappello c'è il turista, l'artista, il malato che andava a fare il soggiorno di cura a Merano, si comperava il cappello e dentro aveva il ricordo, il logo del cappellaio e il ricordo di Merano. Oppure le classiche numerosissime cartoline con le figure in costume ambientate in modo abbastanza fantasioso, sempre il castello c'è, ma questo fogliame, questo laghetto a me non sono parte, diciamo, della vegetazione del territorio. Nell'Ottocento compare anche la fotografia, prima con la camera ottica, poi con la camera oscura, non soppianta assolutamente il vedutismo, le tecniche della veduta, però le signore, le famiglie della borghesia e della nobiltà si facevano ritrarre dai fotografi con un pezzo d'arredo che poteva fungere la terrazza di un palazzo piuttosto che quella di un ristorante o il sentiero della passeggiata. Lo sfondo lo vedete poco, ma è sempre lo stesso, quindi il fotografo aveva una sorta di telere di fotografia ingrandita che fungeva da sfondo. In realtà le foto non erano ovviamente all'aperto. Poi ci sono cose come questo meraviglioso piatto della Villeroy Bosch dei primi del Novecento in collezione a Castel Tirolo. Vorrei solo far vedere il ciliegio. Sì, questa avrei dovuto metterla prima, ma insomma questa è una cosiddetta immagine stereoscopica, cioè andava di moda a un certo punto fare le fotografie doppie che volevano simulare, simboleggiare, significare la visione bioculare, che è quella umana, a differenza della monoculare, che è quella della macchina fotografica. Le vedute si trasformano. Dal 1903, come abbiamo detto prima, cosa è successo? La ricostruzione, la ristrutturazione del mastio, rimasto rudere, visibile o non visibile in tutte le vedute dei decenni e dei secoli precedenti, puff, dal 1903 compare in tutta la sua maestosità. Anzi, qui, a differenza di altre, è anche sottodimensionato. Comunque appare e da questo momento in poi diventa veramente l'emblema che non era mai venuto meno, ma qui casomai ne accresce la visibilità, ma anche la simbolicità non solo del territorio ma anche politica, perché poi qui insomma cominciano un pochino anche i recuperi delle memorie storiche ottocentesche, come quelle di Andrea Sofre, della sua resistenza contro le truppe franco-bavaresi, piuttosto che il luogo dell'origine della casata che ha dato il nome al territorio, che ancora oggi rimane. Noi ci chiamiamo ancora Tirolo, sud, nord, sempre Tirolo è, e sempre a quella famiglia di Mainardo si riferisce, non ha mai cambiato il suo nome. E qui le due vedute sono una senza il mastio e una con il mastio. Questi sono i pittori Compton, sono padre e figlio. Il padre è quasi più un alpinista che un disegnatore, ma comunque un bravissimo disegnatore. Il figlio non arrampica, ma diciamo ha una capacità di rendere i paesaggi alpini veramente fenomenale. Guardate la luce che emana da questo acquerello, guardate diciamo l'imponenza sia del castello, che questa volta è veramente in primo piano, però con questa naturalezza che solo la pittura, io dico di fine Ottocento, qui siamo all'inizio del Novecento perché siamo un po' in ritardo, ma che insomma che solo la pittura di fine Ottocento con l'impressionismo, il divisionismo e questa pittura che smaterializza sapeva dare. E ecco, come in questo caso, questo è un esempio di divisionismo, per esempio, che oltretutto è una grande corrente di fine Ottocento, con questa bellissima visuale sulla Valle dell'Adige. Guardate come digrada, come le forme si sintetizzano mano a mano che si allontana, come invece sono molto, diciamo, per quanto sintetiche e a macchie, diano l'idea di un preciso realismo. Abbiamo avuto la fortuna di avere un passaggio tra numerosi artisti di tre pezzi da 90, come potremmo così dirli in maniera un po' colloquiale, che sono Vasily Kandinsky, la sua compagna Gabrielle Münter e Franz Marc all'inizio del Novecento, nella primavera del 1908, soggiornano per un periodo nel Burgraviato tra Lana e Merano. Questo è un taccuino di 25 fogli di Kandinsky, dove noi continuiamo a vedere il castello, continuiamo a vedere un grande mastio, solo matita, pochi tratti, non manca niente di tutto quello che abbiamo visto adesso, forse i contadini, forse una foglia, forse un po' di neve, ma no, in realtà c'è anche quella. E soprattutto la rocca con il mastio che diventava la, cominciano a sfuggirmi le parole, era la gita, l'escursione, non mi viene la parola, era l'escursione tipica nei dintorni di Merano. Io qua mi sono permessa di mettere una cosa che non c'entra con la mostra, ma è una, diciamo, una piccola veduta di Lana, di Kandinsky, prima che diventasse un astrattista. Lui passa per una sorta di espressionismo dolce, che è quello del Blauerreiter, insieme a Paul Klee e a Franz Marc, per l'appunto, di cui qui c'è un bellissimo esempio, così come della sua compagna Gabrielle Münter, bravissima pittrice, anche se naturalmente di fronte o di fianco a Kandinsky. Tra l'altro hanno avuto anche una vicenda personale molto, molto dolorosa, che poi li ha dovuti separare per motivi indipendenti da loro. Ma guardate questi ciliegi in fiore nella vallata dell'Adige, che cos'è? Però avvicinarsi alla modernità significa anche avvicinarsi a forme diverse, che sono quelle dell'astrattismo, per l'appunto. E qui abbiamo Franz Marc, che anche questa mi sono permessa di inserirla per poter avere una visione più chiara, insomma, di quello che dico. Non era un'opera esposta, però è un'opera importante perché raffigura Dorf Tirol, il paese di Tirolo, in forme astratte da Franz Marc. Peraltro non manca il cielo, non mancano diciamo i tramonti rossi, non mancano i violetti dell'alba, il verde della natura. Il piccolo borgo, eccolo qua, si intravede ancora un piccolo pezzo di realismo. Franz Marc, però, dei tre è sicuramente quello che più sente, più percepisce i venti di guerra, e lui fa questo disegno, questo è un bozzetto per un'opera poi finita, che si trova al Guggenheim di New York, e rappresenta proprio un tema che sembra preludere anche a quello che ha riassunto prima Andrea Bonoldi, quella che sarà la dolorosissima storia del Novecento per il Tirolo. Qui vediamo un'immagine ormai sfaldata, non è astratta, perché noi riconosciamo tra l'altro i suoi amatissimi cavalli del Blauerreiter, che qui diventano delle ombre appena pennellate. C'è un cimitero al centro con quattro croci, intravediamo il mastio delle rocche, il paese, persino l'aquila del Tirolo, fosca, distruttiva, colori spenti e sicuramente un messaggio cupo di presentimento doloroso. Questo per tornare anche al discorso di prima, come l'uso del colore, l'uso del segno e le diverse tipologie di espressione visiva più o meno realistica e fotografica, piuttosto che andante verso l'astratto, forniscano sentimenti e visuali diverse. Un'altra sezione importante che comprende diciamo un momento più politico e un momento più turistico, se così vogliamo dire, più pubblicitario, condensati insieme, perché entrambi fanno parte di una sorta di rivendicazione, pubblicizzazione, esteriorizzazione del territorio del Tirolo per motivi diversi. E qui vediamo due guardie, corrucciato, preoccupato, sono molto in alto sulla montagna, qui svendola la bandiera germanica, lui si copre con la bandiera del Tirolo, il costume del burgraviato, una grande aquila tirolese che incombe. L'immagine parla da sola e diciamo, pur essendo di inizio secolo ed essendo potremmo anche metterla nella sezione cartoline souvenir, perché questo si può anche portare via come un souvenir, però con un significato che non è tanto il ricordo della passeggiata al castello quanto di una situazione che si sta facendo strada. Viceversa, il discorso invece è quello più legato al turismo e alla pubblicità, che tra l'altro è un capitolo meraviglioso che riguarda tutto l'Alto Adige con autori splendidi, non solo Max von Esterle ma anche Franz Lehnhardt per esempio. E qui abbiamo una, poi siamo nel 1910, come ho detto prima, ho già nominato il turismo, la pubblicità che il burgraviato si fa, ma tutto il Tirolo come una terra di aria salubre, di possibilità culinarie, di salute, di passeggiate, di sport invernali e quant'altro. E questa è la pubblicità di tre cantine vinicole, Marsone e Rainer, in tre luoghi diversi, e vediamo una profonda diversificazione tra questa bellissima quinta con questa uva blu perfetta e questa valle. Quando usciamo dalle quinte troviamo sempre un meraviglioso naturalismo che qui è quasi un impressionismo post litteram, con questo bellissimo sentiero pergolato e i pampini già rossi dell'autunno, siamo in tempo di vendemmia. E allo stesso modo faccio un po' clic clac per andare un po' dal nostalgico al faccetto, e qui vediamo invece il frontespizio di un foglio commemorativo di caduti in guerra dei 17 comuni che comprendono la zona del burgraviato. E questo invece è interessante perché prima, quando vi ho parlato di stampe, non vi ho mai nominato la xilografia, che è la stampa su matrice lignea, che offre segni molto grossi, molto neri, molto come di presenza forte, diciamo emotivamente anche pesante per certi aspetti, e che piace molto all'espressionismo e comunque agli incisori della contemporaneità, no? Che non abbandonano le altre tecniche, ma se uno vuole dare una certa efficacia di segno usa sicuramente la xilografia. Ecco, questa è una veduta più o meno immaginaria, con un senso anche qui quasi da cartellone pubblicistico senza la scritta. E qui abbiamo le due cose insieme, che mi sembra la diapositiva più esplicativa, bellissima negli anni 30, la trifora, qui si vede solo un'apertura alle due colonne, ma è una trifora del Salone dei Cavalieri del Castello con le incisioni bassorilievi romanici ben delineati, questa è molto precisa, questa raffigurazione, di nuovo il digradare della Val d'Adige. Ma cosa c'è qua da interessante? La scritta in italiano, Merano, la più grande stazione climatica delle Alpi meridionali, e siamo negli anni 30, siamo anni 20 e 30, periodo dell'italianizzazione, quindi parliamo non solo della politica, dell'aspetto lavorativo, dell'immigrazione forzata delle regioni italiane limitrofe, della forza lavoro, ma parliamo anche della necessità di richiamare un turismo italiano che conosca le bellezze di questi luoghi che ora fanno parte nel bene e del male dell'Italia. Vicino una dolcissima quanto malinconica cartolina per i soldati al fronte arruolati nella Wehrmacht da ricevere nel periodo natalizio. Vediamo una stube, fuori domina a tratti semplici ma non manca di nulla il nostro grande Castel Tirolo. La bambina e il Natale come la festa della luce è un albero di Natale povero, fra virgolette, perché molto, molto bello, però si usa ancora nella tradizione di addobbarlo con le melette rosse che si conservavano al freddo fino a Natale. E non potevo esimermi dal mettervi un Karl Plattner giovanissimo, poco più che ventenne, che fa una cosa assai sconosciuta. Qui riprende il Faust di Goethe, la passeggiata e la conversazione fra i due in un'ambientazione scheletrica molto interessante, molto visionaria e anche un po' magica, perché ovviamente tutta questa parte è totalmente inventata, sembra uno dei castelli della Loira, ma per farvi vedere un Karl Plattner che proprio non conosciamo, non ci immaginiamo, e soprattutto giovanissimo. Per contrapposto, questa acquerella e penna, guardate la forza della sintesi, qui c'è solo il castello, con questo grigio azzurro accennato dei monti, non ci dà nessuna interpretazione di tipo naturalistico, ci dà il castello. Si vedono addirittura i segni a matita sotto l'acquerello, che sono sempre molto belli. Questo per darvi l'idea della capacità di sintesi di Josef Malknecht. Qui anche ho ottenuto la proposta di queste due immagini contrapposte, di nuovo una xilografia, qui dai toni un po' fiabeschi, però vedete il tratto nero, il tratto scuro, il tratto fosco, il tratto di chiave, diciamo il periodo è questo, c'è poco da stare allegri, però il nostro castello se lo disegna qualcuno che se ne sta ben nascosto sulle montagne, mentre più positiva è l'immagine che ci dà, come quella di prima, questo acquerello e matita. E abbiamo qua in sala un acquarellista molto bravo, tra l'altro Silvano Tacus, che penso possa innamorarsi di una cosa di questo genere. E concludo con l'ultima diapositiva, lasciandovi in modo un po' spiazzante e anche per dimostrare che la ricerca del Comitato Scientifico e della Direzione di Castel Tirolo rispetto alle vedute riguardanti questo soggetto non viene mai meno. Qui c'è un'opera di Marcello Iori, come Hans Weigand, sono artisti viventi, sono acquisizioni degli anni più recenti, sono due interpretazioni totalmente diverse. Marcello Iori, che è un meranese, un artista insomma molto noto, lo chiama il mio Castel Tirolo. Allora, niente è astratto finché c'è un titolo, questa è una regola fondamentale. L'astrattismo vero quando le opere quando le opere si chiameranno numero 1, numero 2, numero 3, finché hanno un titolo. E poi il suo castello c'è, e lui qui fa il geometra, perché sembra farne una sorta di rilievo, come dire, un alzato vicino, come si fa nelle piante architettoniche. Dentro questo dinamismo circolare, prismatico, dove quello che noi percepiamo in questi colori pastello, l'andamento circolare è dato dalle masse grigie, con al centro questo spazio più armonico in beige chiaro, giallino chiaro, però qualche piccolo tetto non ce lo lasciamo sfuggire, quindi diciamo l'interpretazione del luogo c'è. E versione, chiamiamola in scuro, questo paesaggio incredibile. Io non conoscevo questo pittore per niente, me lo sono andato a cercare in internet, ha fatto cose straordinarie, tra l'altro. E devo dire che mi piace moltissimo. È una tecnica mista che a prima vista, soprattutto in fotografia, non si capisce neanche che cosa sia, se è un'incisione, se è un olio, se è un disegno acquerellato in scuro. Molta, molta è la capacità che ha tanta tradizione dentro, che è tutta quella del paesaggismo. Però attenzione, perché aspettate perché non vedo neanche con gli occhiali. Allora, qui c'è il castello, perché non sono di fronte, qui c'è il castello e qui ci dovrebbe essere una costruzione utopistica, come anche qua, la vedete? Trasparente, come una sorta di grattacielo evanescente, aguzzate la vista, facciamo anche noi il gioco, e ce ne dovrebbe essere uno anche un po' più in centro, ma questo si vede bene, dai, le vedete? Si vede anche un po' una copertura sopra, sotto questo fogliame. Allora, non so come definirlo, un paesaggista visionario, un'utopia del castello, una visione, come dire, marziana del futuro, di cosa verrà costruito dal Banco dei prossimi secoli di fronte al castello, se ci sarà ancora un po' di roccia, non sarà tutta erosa, non lo so. Concludo con questa domanda e questa attesa di altre acquisizioni con cui ampliare questa bellissima collezione e che testimonia una vicenda artistica molto importante che attraversa i secoli e testimonia una vicenda di luogo e di cultura che è quella della nostra terra. Io vi ringrazio i superstiti. Diciamo che qui c'era materiale per due conferenze, condensato in una assai solida, però noi speriamo, a nome del direttore Leo Andergassen, che attraverso queste chiacchierate passi un messaggio, che è quello di un luogo sfaccettato, poliedrico e che la popolazione di lingua italiana dovrebbe mettere un pochino più dentro le proprie visite e i propri giri, se mi posso permettere. E siamo qui alla Biblioteca Claudio Augusta, che ospita tre conferenze proprio per questo motivo, e sono molto onorata di poter fare parte di questo gruppo appunto misto per competenze, per lingua, per provenienza, per cultura, dove si può veramente parlare a mente aperta di tantissime cose che riguardano appunto il castello e il suo lavoro. Vi auguro una buona serata e grazie.